Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente del Consiglio Europeo, la prima volta di Matteo Renzi a Bruxelles, e soprattutto della notizia del giorno, sicuramente da un punto di vista economico ma forse anche politico, ossia che secondo quanto hanno riferito Vasco Errani e Piero Fassino, chiederà Renzi che i fondi strutturali vengano esclusi dai vincoli posti dal patto di stabilità, così come gli investimenti per l'edilizia scolastica e il dissesto idrogeologico. Risposta di Barroso: il rispetto degli impegni presi in sede europea è fondamentale per la fiducia nell'Italia e nell'Unione Europea. Controreplica di Renzi: l'Italia rispetta tutti i vincoli. Domani in programma un incontro bilaterale con Van Rompuy, la risposta è netta: l'Italia è uno dei paesi che rispetta i vincoli. In effetti, devo dire, se guardiamo la Francia e la Spagna, sul deficit è vero che hanno un debito più basso del nostro, anche se non tantissimo, però ce l'hanno. Noi sul deficit i vincoli li rispettiamo. Ancora, per quello che riguarda lo scopro, questa sarebbe una misura importantissima. Perché? Perché i fondi strutturali, ma soprattutto gli investimenti in edilizia scolastica e dissesto idrogeologico, permetterebbero di far ripartire soprattutto i microappalti, quelli che distribuiscono, che hanno un effetto immediato sul ciclo economico, senza essere considerati dentro il deficit. La cifra non è enorme, stando a quello che abbiamo visto per l'edilizia scolastica, si aggira intorno ai 3 miliardi di euro complessivamente di dissesto e edilizia scolastica, però è sempre uno 0,3% del PIL, anche 0,2% forse, da scorporare. Altra cosa invece i fondi strutturali. Ne parleremo più avanti. L'altro tema di oggi riguarda invece i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, perché oggi da Bruxelles il vicepresidente della Commissione Europea, nonché commissario, Tajani, ha detto che ha aperto una seconda procedura di infrazione contro l'Italia. Ce n'è già una, perché dobbiamo recepire la direttiva europea che dice 30, massimo 60 giorni, oppure scatta la mora e il pagamento degli interessi per il ritardo, per ogni giorno di ritardo, un 8% più il tasso di interesse, che è una cifra altissima. L'Italia dice: beh, questo vuol dire che o la pubblica amministrazione li paga in 30-60 giorni, oppure ha la possibilità di pagarli in ritardo, sostanzialmente beccandosi la mora. Controreplica di Bruxelles, che dice: no, scusatemi, non esistono due possibilità, esiste solo una possibilità, quella di pagare a 30-60 giorni. Usiamo l'esempio di un limite, il limite di velocità. Il tetto è 130 km all'ora, non è che tu dici: ma tanto io decido di viaggiare a 150 perché poi mi pago la multa. Non è un atteggiamento che uno Stato può proporre, cioè la possibilità di violare una norma perché così comunque dopo pago la multa. Casomai la multa è una conseguenza, ma non può essere un atteggiamento preventivo. E su questo Tajani è intervenuto in maniera molto netta. Ne parleremo in apertura, anche perché cercheremo di capire che cosa non stia funzionando, non tanto nei pagamenti quando la pubblica amministrazione riesce, la regione, il comune, la provincia, la ASL, la municipalizzata, a rimborsare direttamente lei le imprese che vantano questi crediti, ma quando i crediti vengono certificati dalla pubblica amministrazione e dovrebbero poter essere scontati in banca. Cioè l'imprenditore va in banca, la media di 330.000, se non ricordo male, euro di ritardo nei pagamenti su un totale di 90 miliardi almeno, in media quindi ogni impresa ha un credito nei confronti dello Stato di 325.000 euro. Ma dicevo, cercheremo di capire cosa non sta funzionando quando l'impresa va in banca e dice: bene, ho una certificazione che la pubblica amministrazione mi deve dei soldi, scontameli. Ecco, lì tutto si sta un po' bloccando per una resistenza delle banche, ma anche per una complicazione burocratica che rende il tuo processo più difficile. Per il resto, mercati: più 0,20% Milano, invariata Parigi, meno 0,1% Francoforte, meno 0,70% Londra, poco mosse tutte le borse. Finmeccanica più 2,77%, Mediobanca più 2,40%, Pop Emilia Romagna più 1,80%, Estima Microelectronics più 1,70%, Prismian più 1,30%, come Unicredit e Intesa San Paolo. Fronte opposto, A2A perde il 2,15%, Snam l'1,90% come la Pop Milano, l'1,70% lo perde il Monte dei Paschi come Mediaset, l'1,30% Iux e Atlantia. Adesso le altre notizie in breve, fermo restando che 349-238-6666 resta il numero per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Parleremo oggi anche di Cina, è un po' che non ne parliamo, ma continuano ad arrivare segnali contrastanti. Intanto il fatto che il governo cinese sta iniziando a far passare l'idea che le imprese cinesi possono fallire, e questo non capitava in Cina, lo Stato fungeva da ultimo garante. Ma dall'altro, oggi Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le sue stime per la crescita cinese, portandola dal 7,6 al 7,3%. La rivista dopo nemmeno due giorni, anzi nemmeno una settimana, era mercoledì scorso l'ultima previsione. Pesa soprattutto in Cina la debolezza dei consumi interni. Nel frattempo China Mobile, l'operatore di telefonia mobile cinese, ha annunciato per la prima volta dal 1999 un calo dei profitti. Gli utili restano, ma sono scesi del 6% l'anno scorso a 14 miliardi di euro. E intanto la valuta cinese, lo yuan, continua a indebolirsi sul dollaro e anche sull'euro, quindi meno 3,5% sul dollaro, meno 3% sull'euro. Euro che oggi sul dollaro è a quota 1,3778, quindi sempre forte, sempre vicino, anche se non come nei giorni scorsi, a quota 1,40. Ieri sera, come sapete anche dai GR di Radio 24, la Federal Reserve ha annunciato la riduzione da 65 a 55 miliardi di dollari, come previsto, degli acquisti mensili di titoli di Stato. Cosa vuol dire? Vuol dire è il modo in cui la Fed, come diciamo noi, stampa denaro. Compra i titoli di Stato dell'America, la banca centrale compra i titoli di Stato, ne comprava per 85 miliardi al mese, poi scesi a 65, adesso scesi a 55 miliardi, e il neo presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, ha annunciato che d'ora in avanti vi saranno meno vincoli sui tassi, ossia i tassi sono allo zero, non saranno più vincolati, un eventuale rialzo non sarà più vincolato a una disoccupazione sotto il 6,5%. Dopodiché parleremo anche, visto che parliamo adesso dei crediti della pubblica amministrazione, di quanto costano i nostri dirigenti pubblici, ma non a caso, anche dirigenti che hanno società di cui non conoscevamo, gestiscono ruoli manageriali in società di cui non conoscevamo l'esistenza. E poi racconteremo altre divertenti amenità sull'ACI, ve l'avevo promessa, visto che il ministro Lupi promette la fusione ACI motorizzazione civile, e sulle spese della regione Lombardia. Ieri abbiamo fatto quelle della regione Puglia, quindi siamo assolutamente non solo bipartisan ma anche nord-sud. Prima di tutto però, mentre oggi Attilio Befera in audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha detto che l'Agenzia delle Entrate sta già partendo con la riforma del catasto prevista dalla legge delega, e va bene, vorremmo che Befera ci chiarisse anche il casino che è venuto fuori a Milano con oltre 15.000 cartelle esattoriali di Equitalia. È vero che l'Agenzia delle Entrate, però insomma, una cosa, ne ha parlato ieri Simone Spezia, inaccettabile, residenti trattati come se non fossero residenti, per cui sono dovuti andare in comune con file chilometriche, una vergogna. Ma continuiamo a parlare di vergogna quando la pubblica amministrazione non funziona. A chi mi scrive: lei è ossessionato dalla pubblica amministrazione? Sì, sono ossessionato dalla pubblica amministrazione perché la vorrei efficiente e non ce l'ho con i semplici dipendenti, anche se pure lì, ma ce l'ho con i loro capi. Il pesce puzza dalla testa, e il pesce della pubblica amministrazione italiana nel pagamento dei debiti che ha contratto anni fa puzza e come. Sì, parliamo di un argomento che sta molto a cuore, è uno dei pilastri dell'iniziativa economica del Premier Matteo Renzi, il pagamento dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti di praticamente 215.000 imprese italiane in attesa di pagamenti complessivamente. In media i crediti valgono circa 322.000, arrivano fino a 322.000 euro, complessivamente la cifra gira intorno ai 90 miliardi, anche se qui abbiamo visto 90-100 miliardi, ma qui rischiamo non una ma due procedure di infrazione da parte dell'Europa su un'unica direttiva, quella del ritardo dei pagamenti. L'ultimo tentativo di convincere Bruxelles per non aprire un'altra procedura di infrazione perché noi non stiamo pagando a 30-60 giorni come previsto dalle regole europee. Beh, nell'ultimo tentativo, dicevo, Roma ha fatto riferimento a un'interpretazione della direttiva dell'Unione Europea apparentemente non corretta, in base a cui la pubblica amministrazione potrebbe scegliere tra pagamento nei tempi previsti, 30 o 60 giorni, oppure pagare in ritardo con una mora dell'8% più il tasso di interesse. Le norme dell'Unione Europea però non prevedono una possibilità di scelta tra queste due opzioni, ma impongono il pagamento entro 30-60 giorni e insieme applicano una mora in caso di mancato rispetto dei tempi. Tant'è che Bruxelles ha chiesto ulteriori chiarimenti a Roma dopo la lettera ricevuta lo scorso 10 marzo. Questo è il fronte dei pagamenti di adesso, diciamo, della direttiva attuale. Poi c'è il tema di tutti i pagamenti degli anni passati. Allora, su questo ricorderete che il commissario Tajani, vicepresidente della Commissione Europea, aveva sbloccato mesi fa il calcolo dentro il deficit di questi pagamenti, cioè lo Stato che va a pagare questi 90 miliardi non vede peggiorare il suo deficit, perché l'Unione Europea dice che comunque sono soldi che avreste dovuto comunque e pagare, che le imprese già vantano come soldi suoi. Tajani ha precisato oggi al nostro Sergio Nava come comunque l'Italia non solo rischia doppia infrazione, ma abbia già avviato l'Europa la procedura per aprire l'infrazione nei confronti dell'Italia. Abbiamo avviato la procedura per aprire l'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato rispetto della direttiva comunitaria. Abbiamo avuto una prima risposta dell'Italia e da questa risposta purtroppo abbiamo dovuto valutare una anche forse erronea trasposizione della direttiva comunitaria. Cioè l'Italia ha sbagliato a trasporre la direttiva sui pagamenti delle imprese. La risposta dell'Italia alla contestazione sull'applicazione della direttiva ci fa capire che l'interpretazione che viene data dall'Italia della propria trasposizione non è corretta. Dove si è sbagliato? Nella risposta si dice non c'è nessuna violazione, perché essendoci la mora prevista, il pagamento di una mora dell'8% più il tasso di interesse, questo esclude la rigidità del termine. La norma è fatta per far pagare i debiti, non per rinviare e non per caricare sui cittadini l'inefficienza dell'amministrazione pubblica che non paga. È come se avessero detto c'è il limite di 130 all'ora sull'autostrada, noi possiamo andare a 300 all'ora perché poi paghiamo la multa. Non è così. Se capisco bene, l'Italia dice possiamo pagare più tardi perché ci avete messo una mora. Questa è un'interpretazione, direi, bislacca. È quella che traspare dalla lettera che abbiamo ricevuto. È una interpretazione che non sta né in cielo né in terra. Ma quando l'avete ricevuta questa lettera? Il 10 di marzo, ecco perché noi abbiamo aperto un'altra procedura con l'invio di uno EU-Pilot proprio su questo. Cioè noi contestiamo all'Italia anche a questo punto la trasposizione della normativa. Dico, è esattamente il caso di cui parlavamo. Mi piace molto l'esempio di Tajani. Ora, il fatto che tu venga sanzionato se vai a violare una norma non vuol dire che tu possa da lì iniziare a dire bene, io violerò la norma, tanto pagherò le sanzioni, perché sulla base di questo principio uno dovrebbe dire viaggio sempre, sono autorizzato a viaggiare sopra il limite di velocità, perché tanto poi mi becco la sanzione. Sarei anche curioso di sapere, giro la domanda al ministro Madia, chi ha risposto in questo modo, perché penso che non sia stata lei, penso che sia stato qualcuno dei capi dipartimento famosi con cui ce l'ho, sì, ce l'ho con i capi dipartimento dei ministeri, perché li cambierei tutti, basta, a meno quelli che hanno fatto più di un paio di mandati, di legislatura, usiamo la legislatura come riferimento, perché rispondere così e poi beccarsi un secondo richiamo dall'Europa perché non siamo nemmeno riusciti a trasporre correttamente la normativa europea, la dice lunga sui tatticismi, il gioco a ping pong, a rimpiatto, a rimbalzarsi la palla, che è abitudine della nostra pubblica amministrazione. C'è una direttiva, la devi per forza trasporre e basta. Poi se sei in ritardo ti beccherai pure la multa, ma che senso ha dire bene allora diamo alla pubblica amministrazione due possibilità? Vuol dire già sostanzialmente dire tanto siccome non ce la facciamo a pagare ci prepariamo a viaggiare oltre il limite di velocità consentito e a pagare la multa. È chiaro che un ragionamento del genere è inaccettabile per lo Stato quando va a sanzionare i cittadini, è inaccettabile che lo faccia lo Stato stesso. Ripeto, non è una cosa ad personam, però anche i capi dipartimento del ministero, visto il bel andazzo della vicenda, dovrebbero autosospendersi, a mio avviso, ma tanto non lo faranno mai. Detto questo, vediamo di capire come stanno andando veramente i pagamenti alle imprese, anche perché sapete che c'è la possibilità per le imprese di andare in banca e scontare questi crediti che vantano nei confronti della pubblica amministrazione, perché questo problema si somma a una carenza di liquidità delle piccole e medie imprese, soprattutto per un credito bancario che continua a calare anche se rallenta il calo. E allora uno dice, beh, almeno vai in banca e sconti i crediti che vanti nei confronti della pubblica amministrazione. Ne parliamo con l'amministratore delegato di Officine CST, Giampiero Oddone, buonasera. Buonasera. Voi siete una società specializzata nel gestire il credito delle imprese verso la pubblica amministrazione e avete circa 10 miliardi di euro di crediti gestiti per conto di circa 8.000 aziende di diversi settori. E avete anche i rapporti con le banche, gli investitori italiani e 3.000 controparti pubbliche. 3.000, perché noi pensiamo sempre al Ministero, ma la pubblica amministrazione vuol dire il Comune, l'ASL, la municipalizzata, la provincia, la regione, l'ente locale, territoriale e quant'altro. Allora, mi dica una cosa. Io ho un dato che dice che finora i pagamenti rimborsati dallo Stato sono stati 22 miliardi. Altri 20 miliardi Renzi li ha promessi, o meglio ha promesso di liquidarli entro il 21 settembre, il giorno di San Matteo, ha fatto pure la battuta, includendo 5 miliardi di ulteriori debiti, e comunque il governo ha promesso di rimborsare in tutto quest'anno 68 miliardi, il che vuol dire, se la matematica non è un'opinione, che altri 43 miliardi li rimborserà tra il 21 settembre e il 31 dicembre. Auguri. Mi dice a voi quanto risulta invece l'anno scorso che sia stato effettivamente rimborsato alle imprese? Ma alle imprese sono state rimborsate in effetti circa 22 miliardi e 4, però il fronte che non ha funzionato bene è stato proprio questo della certificazione dei crediti e della cessione dei crediti alle banche, che è un po' diciamo lo strumento che si vuole utilizzare per pagare questi ulteriori 40 miliardi e rotti a cui Renzi fa riferimento. Sì, perché mi scusi se ne interrompo, il meccanismo è che la Cassa Depositi e Prestiti va a garanzia della pubblica amministrazione, no? E quindi sì. Uno va in banca e dice, bene, siccome io vanto 322 mila euro di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, che hanno a questo punto la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, che entro 10 anni verranno pagati, io vado in banca e chiedo alla banca di accollarsi questi crediti e quindi girarmi l'equivalente, se ho ben capito il meccanismo, no? Sì, io prima dovrei farmi certificare i crediti dalla pubblica amministrazione. Esatto. Il credito certificato ha la garanzia statale e mi consente di cederlo alla banca a condizioni calmierate. Tasso. Mm-hmm. Ok, quanti crediti sono stati certificati? Guardi, nel 31-12 al 31-12-2013 i crediti certificati alle aziende sono stati circa 2,4 miliardi nella piattaforma proprio certificazione crediti, quindi un ammontare estremamente più contenuto di quello che si riteneva appunto dall'inizio, da quando fu creata la piattaforma certificazione crediti del MEF. Ma poi soprattutto è stato quasi impossibile per le imprese cedere questi crediti al sistema bancario e solo il 5% di queste ha ottenuto la possibilità di cederlo. No, mi scusi, però c'è una cosa che non capisco. Lei dice sono 22 miliardi di pagamenti rimborsati dallo Stato, come fanno? È una cosa, e non capisco il corrispettivo tra i 22 miliardi di pagamenti rimborsati dallo Stato e invece i soli 2 miliardi certificati. In realtà le pubbliche amministrazioni hanno preferito, dove avevano soldi a disposizione, pagare direttamente. Ok, adesso ho capito. Per certificare. Allora, adesso ho capito anch'io, mi scusi. Concentriamoci sui 2 miliardi, di cui solo il 5% rilevato dalle banche nella modalità pro soluto, pro solvendo. Come mai le banche si accollano solo una percentuale irrisoria di questi crediti già certificati dalla pubblica amministrazione, già certificati? Perché purtroppo le banche non sono pronte ad acquistare questi crediti certificati perché richiedono delle procedure abbastanza ancora complesse che vengono imposte appunto dalla piattaforma certificazione crediti e quindi dal sistema di cessione del credito alle banche, e inoltre non hanno procedure interne e naturalmente meccanismi molto fluidi che consentono di poter acquistare questo credito in maniera molto veloce ed efficiente, per cui alla fine c'è il rischio che venga prima pagato di quando naturalmente la banca può acquistarlo. Sì, ho capito, ma questo fa parte del meccanismo, cioè se ho ben capito io, nel senso che una volta che il credito è certificato e poi è garantito dallo Stato, dalla Cassa Depositi e Prestiti, la banca, se gira questi 322 mila euro in media all'imprenditore, ha delle garanzie anche per Basilea 3 e per quelli che sono i criteri contabili, no? Cioè, perché in realtà si accolla quello che è una partita di giro per cui l'imprenditore scarica sulla banca quello che è il credito che vanta nei confronti dello Stato. Lo Stato ha un buon rating come debitore e la banca dovrebbe avere non capisco dove sia l'inghippo, se è un problema di resistenza bancaria o di norme scritte ad hoc perché vi sia poi una difficoltà bancaria. Guardi, allora, ci sono un po' tutti e due gli aspetti. Bene. Da una parte c'è una resistenza bancaria perché naturalmente esiste una necessità di far sì che questo credito sia bancabile oltre la garanzia dello Stato, no? Perché in realtà se quel creditore che mi cede il credito poi fallisce, io ancora oggi ho la revocatoria fallimentare, per cui devo fare delle verifiche sul creditore. Dall'altra parte devo naturalmente adempiere a determinate procedure che vengono imposte proprio dalla piattaforma, per cui l'acquisto del credito deve essere poi timbrato, firmato, riportato alla pubblica amministrazione e deve seguire un certo percorso. Allora, non tutti nelle banche sono formati a questo percorso, non tutte le banche accettano questi ulteriori rischi che naturalmente evidenziano la poca bancabilità ancora di questo credito, ed esistono naturalmente dei workflow e delle procedure operative che impediscono di chiudere l'acquisto di questo credito secondo tempistiche di riferimento molto snelle e veloci, che sarebbero quelle necessarie. Allora, per quello che riguarda fatico a capire il meccanismo, perché mi rendo conto che la banca non poi dica se però tu fallisci che cosa faccio io, ma questo è l'unico modo per uscire, a meno che lei non abbia un'altra soluzione, nel senso che voi poi lo fate di lavoro, vi accollate, avete 10 miliardi di crediti gestiti per conto di 8 mila aziende, esistono altre soluzioni? Guardi, allora, prima di tutti c'è un fronte che è quello di semplificare molto le procedure di acquisto di questi crediti in capo agli istituti bancari, quindi rendere già lavorato questo credito e quindi acquistabile in maniera molto più rapida. Poi molto probabilmente mettere in piedi una piattaforma, un marketplace del credito certificato, dove sostanzialmente in maniera molto più semplice l'interlocutore, il creditore che vuole cedere questo credito, ha a disposizione le realtà, diciamo, maggiormente disponibili in quel momento a comprare quel credito e alle migliori condizioni di mercato. Quindi questo fronte è un fronte che si può percorrere e che assolutamente può dare un grosso valore aggiunto. Diamo un consiglio anche al neoministro Madia. Andate a semplificare questa norma, non so se poi faccia capo a lei adesso onestamente o al Ministero dell'Economia e Finanze. Semplificate la norma così, se mi permettete, eliminiamo anche la scusa delle banche. Nel frattempo si conferma che nel 2013 la pubblica amministrazione italiana è stata la più lenta in tutta l'Europa a pagare le imprese, con una media di 170 giorni, la media europea è di 61 giorni, siamo 140 giorni, tra l'altro sopra il limite dei 30 giorni fissato dall'Europa. Grazie a Giuseppe Oddone, amministratore delegato di Officine CST. Grazie a lei. E poi resta il fatto che la penisola è molto corta quando c'è da rimborsare i consiglieri regionali e molto lunga quando c'è da pagare invece le imprese che aspettano. Perché lo dico? Perché se Emilia, Romagna e Veneto come regioni sono virtuose, cioè hanno rimborsato tutti i soldi che ha girato lo Stato alle imprese, e Piemonte e Liguria sono al 99,9%, beh, immaginate un po'. La Sicilia e in generale le regioni del sud sono le meno virtuose. In Sicilia, su 1,5 miliardi di soldi che lo Stato ha dato per pagare le imprese, la regione ne ha stanziati solo il 34,6%, e quindi sono solo 525 milioni di euro l'anno scorso finiti nelle casse dei fornitori. Segue la Sardegna, che è riuscita a stanziare solo il 66%, e la Campania è il 70%. Il mistero resta perché lo Stato ti gira dei soldi e tu non riesci a rigirare le imprese che devono, un po' perché ti fa comodo tenerle in cassa, un po' perché hai un'amministrazione regionale così fallimentare e così lacunosa che non sai nemmeno come organizzare le procedure, nemmeno esattamente quali, a che punto sono, a qual è lo stato dell'arte dei fornitori che non hai pagato. E capisco che alcuni mi scrivano, ma alcuni di questi crediti possono essere falsi, ci possono essere, però scusatemi, una volta che tu hai ottenuto il bene e il servizio lo devi pagare. Se poi si scopre ci dovessero essere, diciamo, delle malversazioni, delle frodi, perfetto, verrà indagata l'impresa e anche il committente della pubblica amministrazione, ma una volta che tu il macchinario piuttosto che il servizio l'hai comprato, se non viene dimostrato che c'è stato un accordo, una tangente o quant'altro, devi pagarlo, se no sulla base di questo principio salta la baracca. Detto ciò, adesso c'è il metodo, la pubblicità, e poi vediamo invece quanto cedermente venivano pagati alcuni rimborsi elettorali, vediamo qua i rimborsi spese dei consiglieri regionali, vediamo quanto costa invece l'ACI. Eh sì, ce l'ho con l'ACI in questi giorni, e vedremo anche quanto vengono pagati alcuni manager di società di cui noi, ammetto l'ignoranza, eravamo completamente all'oscuro dell'esistenza, e sono società partecipate, non sono le grandi, quelle di cui si parla molto in questi giorni per il rinnovo delle cariche. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Meteo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, mentre rischiamo di beccarci la seconda procedura di infrazione, come abbiamo raccontato a lungo, perché non vogliamo pagare nei tempi che chiede l'Europa le imprese, e abbiamo recepito in maniera tutta, diciamo, da burocrazia ministeriale l'obbligo a pagare entro 30-60 giorni, però su altri fronti mi sembra che le resistenze siano molto molto più basse. Iniziamo con la Camera dei Deputati, che non rinuncia agli affitti d'oro, continuerà a pagare 32 milioni e mezzo l'anno per gli uffici di 400 deputati ospitati negli immobili del mitico Sergio Scarpellini. E poi uno scaricabarile tra i questori, l'ufficio di presidenza, tutti vogliono interrompere i contratti, nessuno lo fa. Gli edifici in questione sono due, chiamati Palazzo Marini 2, 3, 4, tutti nel centro di Roma, attorno a Montecitorio, di proprietà della Milano 90 di Sergio Scarpellini. I costi sono fuori mercato, 650 milioni di euro li abbiamo pagati dal 97 per 20 anni, hanno un valore stimato dal demanio di 330 milioni di euro. E però evidentemente c'è anche una clausola capestro, che di solito non si adotta quasi mai, che impedirebbe in modo esplicito il recesso anticipato dei contratti. Ma chissà perché tutte queste garanzie per Scarpellini, che non ci ha fatto niente di male, ma insomma... Noi come cittadini chiediamo che ci sia più rigore quando vai a firmare un contratto pagando a peso d'oro gli uffici di 400 deputati. Mandategli l'iPad. Vabbè, andiamo avanti anche su altre amenità. Qualcuno mi deve spiegare che cosa fa Rete Autostrade Mediterranee. È una società interamente pubblica creata nel 2004 per il progetto delle autostrade del mare, che se non ricordo male non è l'autostrada che corre vicino al mare, non è quella dei fiori, come disse una volta un mitico assistente, ma è l'autostrada, diciamo, fatta dei cargo che fanno cabotaggio lungo la penisola, no? Ha il compito di gestire le istruttorie per i contributi degli autotrasportatori che caricano i tir sui cargo, ok? Allora, la società ha tre dipendenti a tempo determinato e uno a tempo indeterminato. E vabbè, fin qua sono quattro, poca roba. No, perché ha cinque consiglieri di amministrazione che costano ogni anno 312.000 euro con 246.000 euro all'anno per l'amministratore delegato Tommaso Affinita. Senza accento, mi sembra. Ora, io, ma 250.000 euro l'anno per gestire... sostanzialmente le istruttorie dei contributi agli autotrasportatori che caricano i tir sui traghetti. Ma guardate che se volete in outsourcing ce la fate, qualcuno che vi fa lo stesso lavoro a un decimo del prezzo lo trovate. Ma poi non si capisce, quattro dipendenti e cinque consiglieri di amministrazione. Ma poi c'è anche un'altra società, la società di consulenza Studiare e Sviluppo, che paga al suo amministratore delegato Carlo Nizzo uno stipendio di 261.000 euro. Qualcuno mi può spiegare cosa serve Studiare Sviluppo? Visto che siamo in recessione, si è studiato poco. Giuseppe Nucci, invece, amministratore delegato di Sogin, riceve 570.000 euro l'anno. E dice, vabbè, avrà un compito importantissimo. Sapete che fa Sogin? Ha il compito di smaltire le scorie delle centrali nucleari, ma le abbiamo chiuse 26 anni fa le centrali, e tu becchi mezzo milione, anzi più di mezzo milione di euro l'anno. Poi c'è qualcuno dei generoni romani che mi ha detto: lei è un populista, sembra di ascoltare Radio Popolare. Certo, vado a toccare gli interessi di tutti i ben piazzati nelle partecipate dello Stato, ma vi rendete conto che noi paghiamo mezzo milione di euro l'anno uno che deve smaltire le scorie delle centrali nucleari che non abbiamo più da 26 anni? C'è anche la Sogesid, società creata 20 anni fa per gestire la legge sui bacini idrici, capisci? La legge va pure gestita, non va applicata, va pure gestita. Allora, la Sogesid si configura come società di sviluppo tecnico delle strutture regionali, non vi leggo neanche la definizione. Comunque, ha cinque consiglieri, un amministratore legato, Vincenzo Assenza, e speriamo, massimo rispetto, speriamo che nomen non omen, anche perché incassa 326.000 euro l'anno per gestire la legge sui bacini idrici. E poi c'è una bellissima, Lamberto Cardia, che è l'ex presidente della Consob anche, su cui noi attaccammo molto perché capiteranno delle brutte cose quando Cardia era presidente della Consob, non per colpa sua, però la Consob sonnecchiava abbastanza quando c'era Cardia presidente. Allora, è presidente delle Ferrovie dello Stato, ha 79 anni, uno può dire, vabbè, hai fatto il presidente della Consob, hai la pensione, tutto, no. 300.000 euro all'anno. Io voglio sapere a cosa serve il presidente delle Ferrovie dello Stato, visto che Moretti ha ampia delega per fare tutto. Vabbè, dopo il traffico torniamo su altre amenità, fermo restando, lo diciamo ogni volta, che la spesa pubblica italiana complessivamente è identica rispetto al PIL a quella degli altri paesi, è pari al 50% del PIL, in Francia è il 56%, in Gran Bretagna è il 47%, in Germania è il 46%, quindi non è lì che arrivano, il problema è come viene spesa le inefficienze, visto che poi non riesce nemmeno a ottemperare i vincoli dell'Europa, facciamo pure le figure beduine che abbiamo visto prima e cerchiamo i trucchetti per non pagare gli imprenditori. Traffico però. Allora, il tango è della Maiella, però le spese sono della regione Lombardia, la giunta Formigoni. Io non voglio entrare nel fatto che non si capisce perché tu debba caricare alla regione spese dubbie di ristoranti. Lasciamo stare per un secondo i ristoranti, anche quando l'ex presidente Formigoni andava a un incontro con un parlamentare per discutere di una sua ospitata d'anno zero e noi dobbiamo pagare il conto. Vabbè, lasciamo stare questo. Lasciamo stare che le spese di questo tipo negli ultimi due mandati del governatore Formigoni hanno pesato per 320.000 euro tra il 2008 e il 2010, 114.000 euro tra il 2010 e il 2012, però sono compresi anche i costi sostenuti dall'ufficio di presidenza dei sottosegretari della regione Lombardia. Ma ci sono, voglio dire, delle cose interessanti, non si capisce perché al mese l'ex governatore spendesse in decorazioni floreali 645 euro. Colpisce anche la foga con cui si chiedono i rimborsi per 7.596 euro per comprare gemelli in argento e 3.200 euro per 200 pezzi di vuota tasche similpelle. Vuota tasche per gli italiani a questo punto, perché no, per chi le ha comprati 200 vuota tasche? Vabbè, niente rispetto all'inarrivabile Davide Boni, il consigliere regionale della Lega, no? Che lui ha giustificato dei cenni di pranzi con i costi della politica, no? Ma c'era di tutto, è a pranzo con ogni volta in 10 a pranzo per parlare di politica, ostriche, bottiglie di vino, va bene tutto, ci mancherebbe. Boni, tra l'altro, ha anche una vera e propria curiosità per le sentenze della Corte Costituzionale in materia di centri di telefonia in sede fissa e phone center. Praticamente, per questo incontro, il 7 dicembre, spende al ristorante Sambuco, che è uno dei più cari di Milano, con i sindaci di Monza, Tradate, Magente e altri politici locali, 8 persone, un conto di 1.000 euro rimborsato da Boni, solo i secondi sono costati 325 euro. L'ACI, devo chiudere, però l'ACI va verso la sforbiciata, perché l'ACI e la motorizzazione civile costano 200 milioni di euro l'anno, il doppione, e il presidente dell'ACI guadagna 286 mila euro, Angelo Sticchi Damiani, ha 3 vicepresidenti a 105 mila euro, un segretario generale che guadagna 300 mila euro e un comitato esecutivo, poi ci sono i club a livello provinciale. E poi tutte le società di secondo livello che fanno capo all'ACI, che non hanno obbligo di rendicontazione e quindi non rispondono alla spending review, i loro soldi sono pubblici ma figurano giuridicamente come società private. Minuti, riprende Focus Economia, ma è appena terminata una brevissima conferenza stampa di Matteo Renzi tra la fine dei lavori al Consiglio Europeo e, da quello che abbiamo capito ascoltandola, l'inizio invece dell'intervento di Mario Draghi al Consiglio Europeo, quindi doveva rientrare, in cui ha confermato che rispetteremo i vincoli dell'Europa, ma viene chiesto di, come già anticipato oggi, di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti, alcuni tipi di investimenti, fondi strutturali, investimenti per edilizia scolastica e il dissesto idrogeologico. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci col nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava, o se no lo facciamo fra qualche minuto. Intanto vi do la giornata di borsa e poi gli altri titoli. Non rispondo agli sms che dicono che ci occupiamo di bagatelle per quello che riguarda gli sprechi della pubblica amministrazione. e i costi, perché saranno bagatelle per alcuni, ma sono cose scandalose per altri, e rimborsi della politica. Dicevo, in attesa di collegarci con il nostro inviato Sergio Nava a Bruxelles, andiamo con la borsa. Borsa che oggi faccio io e vi dovete accontentare: più 0,56% Milano, più 0,46% Parigi, più 0,21% Francoforte, meno 0,47% Londra. I titoli migliori: Finmeccanica più 2,84%, Mediobanca più 2,70%, Pop Emilia Romagna più 2,40%, ST Microelectronics più 1,80%, Prismian più 1,70%, Unicredit più 1,5%, Intesa San Paolo più 1,20%, Fiat più 1%, come Tenaris e Luxottica. Chi va male oggi a 2A, per quello che riguarda meno 2,20%, Pop Milano meno 1,80%, Snam meno 1,70%, Mediaset meno 1,40%, Atlantia meno 1,20% e Monte dei Paschi meno 1,16%. Come vedete, sentite, soprattutto Finmeccanica è tra le poche, è quella più positiva di tutte le blue chips, seguita anche a breve distanza da Ansaldo STS, poi ha un po' ridotto la crescita, ha chiuso con un più 0,70%. Ipotesi della cessione del settore trasporti dopo che il governo ha approvato ieri sera il piano di dismissione del gruppo guidato da Alessandro Pansa fanno e spingono il titolo. In ordine sparso, come avete sentito, le banche. Invece in ribasso Telecom Italia, anche se poi perde lo 0,80%, in linea con tutto il settore in Europa. Credit Suisse infatti ha fatto un'analisi in cui sottolinea le incertezze sulle strategie di Telecom Italia, soprattutto in Brasile, e ha mantenuto una visione negativa. Scende Snam dopo l'abbassamento di giudizio, di voto da parte di Deutsche Bank, e scende in maniera significativa, meno 1,80%, e invece tra i titoli minori positiva Salini Impregilo, che ha annunciato il nuovo piano al 2017, i ricavi salgono a 4 miliardi, quasi 3 miliardi 9, l'utile netto è di 99 milioni di euro, torna quindi all'utile Salini Impregilo, e a partire dal 2014 pagherà un dividendo con un payout minimo del 20%. Buono anche il dato di Piaggio, che però sconta le doppie tasse, diciamo, perché l'utile scende perché ha aderito alla proposta dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di pagare in Italia tasse già pagate in altri paesi. In altri paesi questo ha avuto un impatto di 25 milioni quasi di euro, e quindi l'utile di Piaggio scende dai 42 milioni dell'anno del 2012 ai 18 milioni di quest'anno. Migliori e peggiori: The Wind più 19%, Pininfarina più 13,90% e Borgo Sesia più, sulle risparmi non convertibili, più 6,70%, bene anche Eurotech più 8,27%. E poi per quello che riguarda i peggiori invece, Telecom Italia Media Risparmio meno 7,70%, Enervit meno 5,21%, Piaggio, di cui ricordavamo i conti, meno 4%, Dada meno 3,66%, Mondo TV France meno 3,55%. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso, visto che c'è stata sorpresa questa conferenza stampa rapidissima di Matteo Renzi, tra una riunione e l'altra al Consiglio Europeo, cerchiamo di capire quella che, ripeto, probabilmente è la notizia più forte del giorno. Un Renzi che già prima dell'inizio del Consiglio Europeo aveva detto i fondi strutturali devono essere esclusi dai vincoli posti dal patto di stabilità, così come gli investimenti per l'edilizia scolastica e il dissesto idrogeologico. Barroso risponde a Renzi dicendo: attenzione, i vincoli, gli impegni presi vanno rispettati per la fiducia nell'Italia e nell'Unione Europea. Controreplica di Renzi, che ascoltiamo, una controreplica velocissima a Barroso. L'Italia sta rispettando tutti i vincoli, quindi l'Italia è uno dei paesi che i vincoli li rispetta. A dopo. Allora, Sergio Nava, inviato di Radio 24 al Consiglio Europeo, buonasera Sergio. Buonasera. Abbiamo visto durante il GR praticamente una rapidissima conferenza stampa di Matteo Renzi, il quale, se ho ben capito, però visto che tu eri presente, dammi maggiori informazioni, ha ribadito che l'Italia rispetterà i vincoli, ma l'Italia sta facendo delle riforme importanti e in qualche modo, se ben capisco il ragionamento politico, devono essere comprese dall'Europa e anche aiutate con l'esclusione di alcuni calcoli dal deficit. Sergio. Sì, diciamo che la conferenza stampa di Matteo Renzi, tra l'altro molto improvvisata, è durata 5 minuti 5, non ha detto molto di nuovo, questo va subito chiarito. Matteo Renzi, perché ha ripetuto concetti già esplicitati nei giorni scorsi, come l'Italia che non viene in Europa come uno studente fuori corso e che si rispettano i vincoli, però nella sostanza, ecco, questa è la cosa interessante, che Renzi non ha risposto alle domande fondamentali, cioè sulla deficit strutturale, sull'obiettivo del pareggio di bilancio. Insomma, quelli che lui definisce zero virgola, lo ha detto anche pochi minuti fa, ma che poi alla fine sono importanti per l'Europa. A domande precise dei giornalisti lui non ha risposto, ha rimandato al DEF, al documento economico di programmazione economica che ci sarà tra qualche giorno. Tutto in una giornata, come dicevi tu Sebastiano, contrassegnata da un botta e risposta tra Renzi e le istituzioni europee che non hanno fatto mancare il loro giudizio tranciante, dicendo l'Italia deve rispettare i vincoli, e Renzi che poi ha detto sì, li rispettiamo, però prima aveva anche detto il patto di stabilità è anacronistico, dobbiamo togliere gli investimenti, i fondi europei dal patto. Insomma, quello che domina al momento, se devo essere sincero, una certa confusione su quello che l'Italia sì, ecco, vuole fondi fare, europei, su fare. Fondi europei va chiarito, non è che i fondi europei entrino nel nostro deficit, però siccome i fondi europei prevedono sempre, i fondi di coesione, un cofinanziamento dello Stato, per cui tu hai dei fondi, ma poi se ho ben capito il ragionamento, perché appunto come tu ricordavi non è che la chiarezza sia proprio regni sovrani in questo momento. Renzi vorrebbe levare dal deficit la quota parte che è di competenza dello Stato in questi fondi, nel senso che sono sempre fondi in cui l'Europa mette una parte, diciamo così, e c'è il cofinanziamento statale. I fondi europei in sé non entrano nel nostro deficit, ci mancherebbe, se no nessuno li vorrebbe più, ma c'è la parte che lo Stato, per far attivare questi fondi, per farli partire, deve mettere, e gli altri sono... prego Sergio, che è il 50%, che è il 50%, certo. Quindi è una cifra significativa. Bisogna anche dire che Enrico Letta e anche Mario Monti sul tema degli investimenti, si parlava più in generale di investimenti per la crescita, hanno calcato molto la mano nei mesi scorsi per cercare di scorporarli dal calcolo del deficit e non ci sono riusciti, proprio perché l'Europa ha sempre rimarcato: attenzione, avete degli squilibri macroeconomici, attenzione, avete un debito troppo alto, non tendete, come dire, al pareggio, a un deficit strutturale in pareggio. E di conseguenza l'Europa su questo è sempre stata molto molto scettica. Ora, se Renzi ci riesce, ecco un'altra cosa. Noi abbiamo ascoltato la tua intervista a Tajani, quella relativa alla prima parte del programma, ai debiti della pubblica amministrazione, alla seconda procedura di infrazione che l'Europa sta aprendo sull'Italia per un'interpretazione, ne abbiamo parlato per un'ora, per un'interpretazione assurda di entro quanto vadano pagate le imprese. Però tu hai avuto un colloquio anche con Tajani sul rispetto dei vincoli, Sergio? Sì, su questo bisogna dire che Tajani è stato un po' più, come dire, aperto, nel senso che ha detto ovviamente la Commissione, precisiamo, è in scadenza, quindi sarà un tema di cui si dovrà occupare soprattutto la prossima Commissione, però è un tema, ha detto, politico degli Stati su cui si può ragionare. Certo, finché ci sono dei limiti, finché c'è un tetto al rapporto deficit-PIL, occorre rispettarlo, però ovviamente non è un dogma, così diceva Tajani, per cui se ne può parlare in futuro. È chiaro che con la crisi che ormai contagia il sud e il centro dell'Europa da diversi mesi, sia l'Italia che gli altri paesi mediterranei che la Francia stanno spingendo su questo tema, però è un po' presto. A mio avviso però la nota di carattere più politico è quanto tu ricordavi, cioè, ossia questa Commissione europea con i vari commissari è in scadenza, ci sono le elezioni europee. E se non ricordo male, proprio nell'incontro Renzi-D'Alema, è stato D'Alema due giorni fa a suggerire a Renzi: ma tu vai avanti, perché tanto l'eventuale procedura di infrazione la dovrà fare una nuova commissione, vedremo che Parlamento uscirà da queste elezioni, vedremo che forza avrà questa Commissione europea. Mi rendo conto che sia un ragionamento molto machiavellico, non a caso l'ha fatto da Emma, infatti mi fa la battuta, però è un dato sicuramente politico, cioè chi sta parlando adesso, Sergio, sono i commissari, i presidenti che non ci saranno più fra poche settimane. O cambieranno in buona parte, sì. Il tutto, diciamo, nell'estate sarà varata la nuova commissione, chiaramente dipenderà anche in buona parte dai risultati delle elezioni europee. Se prevarrà una formazione più socialista o socialdemocratica, potrebbe avere un'impronta meno rigorista, però teniamo sempre presente che c'è il guardiano dei conti che si chiama Angela Merkel, che su queste cose l'ha reso molto chiaro a Renzi in un discorso, non dimentichiamolo, ha detto questi sono i vincoli e questi vanno rispettati, sì, e Renzi in sede tedesca è stato anche molto accondiscendente. Sì, con Angela Merkel, dopodiché vedremo che commissione uscirà, quale sarà l'esito elettorale, perché adesso qui andiamo dall'economia alla politica, ma è chiaro che se dovesse esserci una batosta per questa gestione d'Europa e quindi un premio ai partiti anti-europeisti, ahimè in alcuni casi anche anti-euro, beh, forse la posizione tedesca risulterebbe ancora più isolata e ancora più difficile da sostenere, per quanto la Germania sia importante, ma non possiamo, diciamo, distruggere l'intero percorso europeo perché la Germania si è incaponita con una declinazione ragionieristica di questa Europa. Grazie a Sergio Nava, in collegamento con noi da Bruxelles. Il traffico. Parliamo adesso di energia. La Cina dobbiamo farla domani perché la scaletta, come avete sentito, è stata tutta modificata. Non tanto per le nomine, lo dico subito, le nomine ai vertici di Eni, Enel, Finmeccanica, Poste, Rai. Sta girando di tutto, personalmente è una cosa che lascio ai salotti romani. Quando arriveranno i nomi valuteremo il profilo e chi c'è. E quindi chi prende questo posto, se è vera la scelta che Renzi è intenzionato a fare, ossia prima valutare i piani industriali e poi scegliere gli uomini sulla base di questi piani. Il toto nomine, diciamo, ripeto, lo lascio a certi salotti romani, per cui non nutro nessun tipo di invidia. Ma invece sull'impatto per quello che può reperire di energia che la crisi ucraina e russa sta avendo sui prezzi dell'energia. Oggi, in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera, il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha detto solo un 30% dei nostri consumi proviene dalla Russia, quindi potremmo anche vivere senza il gas russo, ma attenzione ai prezzi. Anche in presenza di una crisi ucraina, e la crisi ucraina può essere di due tipi, o la crisi ucraina nel senso che il gas russo che attraversa l'Ucraina non attraversa più l'Ucraina, non ci arriva più, quindi per situazioni di conflitto tra Russia e Ucraina il flusso è interrotto, e questo è il caso A. Oppure un caso B potrebbe essere sanzioni che il nostro Paese e l'Unione Europea fa verso la Russia, quindi non è che non transita il gas, è che noi non lo vogliamo questo gas. Bene, in entrambi questi casi noi siamo in grado di assicurare le forniture all'Italia. Allora, non ci piace naturalmente perché andiamo un po' al limite, poi naturalmente i prezzi tenderebbero a salire perché meno offerta salgono i prezzi, ma ce la faremmo. No, dico siamo un po' al limite perché tutta la nostra struttura organizzativa è basata su quella che noi chiamiamo N-1, cioè fornire ai nostri clienti se ci manca una fonte, ed è questo il caso. Se per esempio a fianco di un problema russo avessimo un problema in Libia, che è un altro nostro fornitore, beh, tutto questo complicherebbe la vita. Beh, chiaro il ragionamento, la struttura dell'ENI e quindi dell'approvvigionamento del gas regge e può reggere se manca uno dei tre, delle tre gambe. Non fate battute sulla terza gamba, per favore, ma una delle tre gambe. E quindi, se però dovesse mancare anche la seconda, a questo punto vi sarebbero seri problemi. Molti mi scrivono ancora sugli stipendi dei manager, Scaroni, Conti. Io posso essere d'accordo, se bisogna riformare tutto, riformiamo anche gli stipendi dei manager, delle società partecipate, con un minimo di attenzione, per non diventare in questo caso sì populisti. Io non so dire se i 5 milioni di scaloni siano troppi, sono tanti sicuramente, però attenzione che poi quando devi andare a prendere manager da altre parti devi confrontarti anche sul mercato privato, a meno che uno non voglia fare una scelta interna, e allora di solito il numero 2 o il numero 3 è contento anche di ricoprire quella carica guadagnando magari meno. Però se questi manager vanno presi poi sul mercato dei manager, guardiamo anche quelli che sono gli stipendi complessivi dei manager di società simili o che potrebbero essere simili. Detto ciò, andiamo avanti con il presidente dell'antitrust Giovanni Pietruzzella, che ha detto: attenzione, il calo dei consumi di gas in Italia rischia di diventare un dato strutturale, non solo più legato alla crisi economica. Ha però confermato l'importanza di trasformare l'Italia nel hub del gas, anche intercettando il flusso di shale gas che arriva dagli Stati Uniti. Oggi il mercato italiano del gas sta attraversando dei cambiamenti strutturali, dei cambiamenti veramente epocali, dovuti alla crisi economica che ha abbassato notevolmente il livello della domanda, all'esplosione del cosiddetto shale gas negli Stati Uniti e l'abbandono del nucleare in Giappone e, secondo quello che ha programmato il governo tedesco, anche in Germania, allo sviluppo delle rinnovabili in sede europee. Sono questi gli elementi che definiscono il quadro e di cui non possiamo tener conto, soprattutto in una politica di medio termine. Il comune denominatore di tutte queste trasformazioni è il fatto che, ed è forse appunto l'elemento più importante con cui oggi ci confrontiamo, è che abbiamo una caduta della domanda finale di gas naturale. Questo non è più probabilmente un fenomeno congiunturale legato alla crisi, ma può diventare, sembra diventare, un dato di carattere strutturale. Nella relazione scritta indico i dati, per esempio nel 2008 i consuntivi ammontavano a circa 86 miliardi di metri cubi anno, poi passati nel 2012 a 75, e per il 2013 sembrerebbe, dai primi dati, che siamo arrivati a 70, quindi la caduta è importante, imponente. Come è importante e imponente la caduta dei consumi e la caduta, il crollo del potere d'acquisto degli italiani, non è che bisogna sorprendersi. Detto ciò, Pietruzzella invece, e chiudiamo con questo, dice: l'intenzione del governo di tagliare del 10% le bollette delle piccole e medie imprese, che fa parte del piano di Renzi, imporrà una redistribuzione degli oneri, quindi un grosso problema politico. Per quanto riguarda il costo relativo dell'energia elettrica, è qui noto come l'agenda di governo ha fissato l'obiettivo di ridurre del 10% il costo dell'energia per le piccole e medie imprese, dove coloro che pagano l'energia di più sono proprio le piccole e le medie imprese. E, secondo le prime stime, si tratterebbe di un intervento del valore di circa 1,4 miliardi di euro all'anno. E ora l'intervento però sul costo relativo tra diverse categorie di utenti riguarda la ripartizione del peso degli oneri di sistema e quindi è un problema di redistribuzione del costo tra diverse categorie, quindi anche un problema politico grosso, perché si tratta di stabilire che tipo di equilibrio si vuole dare tra soggetti economici diversi e tra interessi diversi, e quindi si tratta di un intervento che attiene alla sfera politica. Eccoci. Quindi per la parte attuativa di carattere politico. Comunque, per ora è tutto. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.